La scuola si racconta, in collaborazione con l'Ufficio Diocesano Educazione e Scuola. Ultimo appuntamento prima delle vacanze di Natale con la scuola che si racconta. Ci sono valori certamente da passare, ci sono anche però questioni eminentemente finanziarie ed economiche. Allora, sulla situazione per quanto riguarda i finanziamenti da parte del governo e da parte della Regione Veneto, abbiamo interpellato il presidente regionale della FISM, Stefano Cecchin. Diciamo che il Veneto, per quanto riguarda i contributi statali 2016, li ha ricevuti l'ufficio scolastico regionale verso fine settembre, e le procedure da parte degli uffici scolastici territoriali provinciali per la liquidazione del contributo sono state terminate da circa una settimana, 15 giorni al massimo, quindi le scuole stanno incassando ora appunto il contributo 2016 da parte dello Stato. Diciamo che abbiamo circa 3-4 mesi di ritardo, perché storicamente questo contributo lo vedevamo ai fini di, come gestori delle scuole dell'infanzia, lo vedevamo a fine agosto, primi di settembre. Ecco, quest'anno, per tutta una serie di motivi legati anche a un ricorso che ANSEI, che è in sostanza l'associazione che raggruppa i gestori di scuole di ogni ordine e grado, paritarie, legate a Confindustria, le quali volevano che nel riparto nazionale dei contributi il criterio del non profit non fosse considerato da parte dello Stato, quindi venissero messe sullo stesso piano le scuole che hanno finalità profit, quindi che vogliono fare del business, con quelle come le nostre, come quelle paritarie legate alla FISM, le quali non hanno finalità di profitto, e quindi come si dice sono aiutate anche da molto volontariato, eccetera, e quindi in sostanza quell'associazione aveva fatto un ricorso che aveva poi allungato a dismisura i tempi. Per fortuna stiamo rientrando, e quindi entro fine dicembre dovremmo riuscire a vedere il contributo statale 2016 pagato. Per quanto riguarda la regione si è allineata con il 62% che mancava del contributo NIDI 2014, che quindi ha allineato proprio questa partita da circa due mesi, dopodiché ha pagato sia il contributo NIDI e materne 2015, slitteranno al 2017, il contributo NIDI e materne regionali invece 2016, quindi l'anno 2016 come contributi regionali slitteranno, diciamo, a inizio febbraio inizieranno di nuovo le operazioni di pagamento e altro, quindi diciamo che tra febbraio e marzo, al massimo entro aprile, dovremmo riuscire a ricevere contributi regionali 2016, NIDI e materne. Quindi complessivamente stiamo parlando sul 2016 di circa una sessantina di milioni complessivamente per tutte le scuole del Veneto di ogni ordine e grado statali, che stanno arrivando appunto qui a dicembre. Mentre per quanto riguarda i contributi regionali 2016, NIDI e materne scaleranno al 2017, quindi dicevamo tra febbraio e marzo, aprile al massimo, speriamo, e sono complessivamente 38 milioni, di cui appunto 18 ai NIDI e 18 alle materne. In prospettiva 2017, dicevo in apertura, appunto, il governo ha già approvato la legge di stabilità, mentre in regione c'è ancora discussione. Su questo cosa sapete, cosa ci puoi dire? Allora, gli elementi positivi ci sono stati e sono anche frutto del lavoro intenso che è stato fatto soprattutto dal Veneto a livello nazionale, questo è stato riconosciuto da tutti, proprio dal Veneto, relativamente appunto all'ingaggio, passato il termine, con il governo in primis e poi con i parlamentari, soprattutto i deputati presenti alla Camera, Veneto e non solo. Questo ha portato ad un incontro ai primi di ottobre con il Premier Renzi, che è venuto a Treviso, e siamo riusciti a fare in modo di avere un incontro riservato con lui, con il FISM del Veneto, e abbiamo presentato al Premier, la prima volta che il Presidente del Consiglio incontra appunto un'associazione come la nostra, la situazione del Veneto, che è una anomalia, se vogliamo, a livello italiano, dato che abbiamo due bambini su tre che frequentano le scuole dell'infanzia paritarie. È un'anomalia virtuosa, perché fa risparmiare lo Stato 500 milioni di euro nel solo Veneto l'anno, va bene? Renzi l'ha capita, ha capito anche il fatto che esistono dei bambini che hanno più bisogno di altri, famiglie che hanno più bisogno di altri, quindi si è impegnato anche sulla linea di aiutare non solo le scuole materne in generale con alzando il contributo ai gestori, ma soprattutto anche nei confronti dei bambini che presentano certificazioni, handicap e bisogni particolari, speciali. Sono degli elementi molto positivi, c'è un'attenzione che non c'è mai stata dedicata puntualmente alle scuole materne, con un 50 milioni di euro in più che, dovendo fare il conto della serva, valgono circa 8.000-9.000 euro a scuola in Veneto, quindi non sono pochi, perché 50 milioni diviso tutte le 7.000 e passa scuole a livello nazionale, anche di più ampi, perché rientrano tra le scuole paritarie anche le paritarie comunali, perché ce ne sono a Verona, a Venezia, a Vicenza, tanto per citare il Veneto, ma ad esempio in Emilia Romagna ce ne sono parecchie, rientrano tutte, ecco, valgono circa 8-9 mila euro a scuola. Non sono tantissimi, ma non sono neanche poche, quindi è una boccata d'ossigeno, diciamo, importante. Un'attenzione importante proprio nei confronti e verso la direzione della libertà di scelta educativa delle famiglie e del sostegno soprattutto dell'infanzia, quindi del segmento d'età 3-6 anni e di tutto il percorso di prescolarizzazione che viene fatto appunto sui bambini di questa fascia d'età. Grazie, buon lavoro a Stefano Cecchin, alla FISM, a tutte le scuole materne, scuole per l'infanzia, comunque a tutte le nostre scuole paritarie. Torneremo con l'appuntamento della scuola subito dopo le vacanze. La scuola si racconta, in collaborazione con l'Ufficio Diocesano Educazione e Scuola.